e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, buon primo maggio a voi e a te Deborah. Buon primo maggio anche a te Nicoletta. Speriamo peraltro che tutti i nostri amici stiano trascorrendo in modo speciale questa giornata con le persone care, e anche noi la trascorriamo in modo speciale, giusto? Eh sì, in questo giorno di festa non vi lasciamo soli, ma come sempre vi teniamo compagnia con un meglio di del nostro programma. Un'occasione insomma per riascoltare, perché no, alcuni dei temi che abbiamo affrontato in questi mesi. Per i temi di cuore ripasseremo insieme le regole per fare un buon sonno e dei sogni d'oro, e poi parleremo di felicità. L'avete trovata, afferrata, la state cercando? Dove? Ne parleremo con un'esperta. Per quanto riguarda invece i denari, intanto in questa festa dei lavoratori partiamo ascoltando una voce giovane, giovanissima, quella di Sofia Viscardi, 18 anni, giovanissima ma seguitissima youtuber. In occasione dell'evento, il Workday Experience di Adecco, la scorsa settimana ci siamo confrontati proprio sui lavoratori del futuro e su come i giovanissimi guardino al mondo del lavoro, quindi ci sembrava bello oggi partire con questo contributo. Non ho bisogno di guadagnarmi da vivere, no? Vivo ancora con i miei genitori, vado a scuola, per cui rimane comunque sempre un divertimento. Non ho mai fatto niente perché avevo la necessità di farlo per motivo economico, diciamo. Ho deciso che volevo comunicare anch'io con qualcuno che andasse oltre la mia cerchia di amici. E dopodiché è un po' venuto tutto da sé. E ho sempre sfruttato delle occasioni che mi si sono presentate. In più, grazie ai social, noi siamo molto più facilitati in qualche modo ad essere flessibili lavorativamente parlando. Quello è vero, però tu hai espresso un concetto molto importante. Sono sempre riuscita a cogliere le opportunità che mi si presentavano. Ti vorrei chiedere, da 19enne, così vivace, creativa, intellettualmente anche parlando, un messaggio alle mamme e papà che vedono i figli della tua età che invece non manifestano desideri particolari, attitudini, brava, interessi particolari. No, sai quella, passatemi il termine è brutto ma qualche volta descrive bene questa realtà, un po' quell'indolenza che è a volte tipica un po' di quei giovani, che magari deve essere solo rimossa dalla superficie, no? Ma sì, magari non è il tempo, ecco. Si arriva poi, esatto, dopo 6 mesi magari si apre uno spiraglio, il ragazzo manifesta. E invece quello che mamma e papà vorrebbero subito, no? Sì, che dicessero: da grande voglio fare l'ingegnere, l'astronauta, il calciatore, piuttosto che il cameriere, il barista. Sofia, insomma, non è però facile avere subito un'idea chiara rispetto a come ci si proietta nel futuro nel mondo del lavoro. Che idea hai su questo tema che è molto importante? Dunque, non è facile assolutamente, ma neanche io stessa ho chiaro che cosa voglio fare da grande, ipoteticamente parlando. Quando mi chiedono questa cosa dico sempre: domanda da $1 milione, non lo so. Sono comunque come tanti giovani, come tanti miei coetanei, come posso vedere, visto che sono a contatto con loro tutti i giorni, molto flessibile, molto aperta a quello che mi ci si presenta. Poi, mai fare di tutta l'erba un fascio, perché giustamente, come ci sono tanti giovani disposti ad essere flessibili e ad accettare le opportunità che gli si presentano o ad avere le idee chiare, ci sono anche quelli che invece non hanno voglia di applicarsi e preferiscono stare comodi a casa dei genitori finché non gli si presenta un'occasione. Quello purtroppo è soggettivo e non so neanche che cosa poter dire ai genitori a riguardo. Sicuramente posso dire che, essendo a contatto con tanti giovani tutti i giorni, non è vero che nessuno ha voglia di fare, perché invece io vedo tanti giovani che hanno tanta voglia di fare, di impegnarsi per raggiungere degli obiettivi. Un messaggio di speranza, allora dedichiamo questa puntata del primo maggio a tutti i giovani lavoratori, con l'augurio che possano individuare e coltivare la propria passione, proprio come Sofia. Ora, continuando con i nostri argomenti di denari, vi porto a casa. Con il nostro architetto Rita Campana abbiamo parlato in più occasioni di come renderla più bella, funzionale, sempre con un occhio attento al budget. Allora andiamo a riascoltare alcuni dei consigli più interessanti dalla nostra rubrica La radio è di casa. In particolare abbiamo scelto per voi la puntata in cui, in occasione del Salone del Mobile di Milano, Rita è venuta a trovarci in studio e con lei abbiamo parlato del soggiorno delle nostre abitazioni. Sentiamo. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. La radio è di casa.